Ammazzarono generali, ammazzarono prefetto di Palermo. Non ebbe tempo manco per pregare, chi lo mandaro dritto Padre Eterno. Un generale dalla chiesa indagava su cose che nessuno rinesciva, ma io con coraggio affrontava pure la gente che manco veniva. Aiva carta bianca i poteri, ma mala vita mi pote combattere. Ma Palermo è una città i misteri, non ci sono delinquenti quattro lire. Spiegare l'andrangheta ai tedeschi, cercando di convincere loro che l'andrangheta non è tanto un qualcosa, non è malavita, ma è un qualcosa di culturale. Questo è quello che sta accadendo da qualche anno. E questa è una delle tante canzoni che sono state pubblicate in un CD dove appunto si cercava di trasferire questa cultura popolare, spacciandola per tale, quando invece sono canzoni che sono veri inni all'andrangheta, alla malavita, alla mafia. Questo è quello che sta succedendo in Germania, questo è quello che sta accadendo anche in queste settimane con l'uscita di un altro libro. E per capire il perché, per capire qual è lo stato della situazione, abbiamo invitato un'amica dell'altra Europa, lei è un'esperta di mafia e dei rapporti tra mafia e Germania. Diamo il ben ritrovato e il benvenuto a Petra Reschi. Ciao Petra. Ciao. E un fenomeno che tu segui da anni, di cui ne hai scritto e di cui non si smette mai di imparare, nel senso che è uscito un altro libro, sempre scritto da Francesco Sbano, ci racconterai chi è, e continua questo strano percorso, questo tentativo appunto di presentare l'andrangheta come un fenomeno culturale di cui sì, non se ne può fare a meno. Cosa sta accadendo? Allora, diciamo che c'è questa strategia propagandistica dell'andrangheta in particolare, ma diciamo della mafia in generale in Germania, è in corso da un paio di anni, diciamo da 10 anni, che si è rinforzato ovviamente dopo la strage di Duisburg, il momento in cui la mafia in Germania aveva qualche problema di immagine. E in questa occasione la musica della mafia è stata prodotta appositamente per scopo propagandistico da questo Francesco Spano in Germania, veniva diffusa non solo in Germania ma anche in Olanda, anche in Francia, anche in Inghilterra, ma soprattutto con grande successo in Germania, perché lì, e questo era lo scopo principale, di crearsi una rete di giornalisti disponibili, sensibili al tema, che sono stati giornalisti soprattutto che non parlano italiano, che non hanno mai letto neanche un atto giudiziario sulla mafia, che non conoscono niente di mafia, che sono generalmente persone che si occupavano di cultura e cose simili. Sì. Dunque, tramite questi sono stati da Francesco Spano anche portati in Calabria per presunti incontri con boss dell'andrangheta, e dopo venivano fuori questi articoli che lui desiderava tanto, articoli, reportage di colore, tipo che l'andrangheta non è altro che un piccolo popolo che vive nell'Aspromonte, che balla, danza, ogni tanto si uccide reciprocamente, e un tipo di ciappa, una cultura che sta per sparire, sì, che c'è da proteggere. Petra, stavo leggendo una recensione, o forse proprio è scritto nel prologo del libro appena uscito di Francesco Sbano, da un giornalista tedesco, che dice appunto: la mafia deve essere raccontata dai boss e non dai magistrati o dalle vittime. Questo vuol dire che, insomma, sta facendo quasi breccia questo lavoro di deformazione culturale in Germania nei confronti della mafia, dell'andrangheta? Ma questo fa parte soprattutto della controinformazione dalla parte della mafia. Dunque, questo autore, cioè questo giornalista tedesco dello Spiegel, niente meno, Andreas Ulrich, ha scritto l'introduzione al libro di un presunto boss, perché qui si tratta di una favola ovviamente, perché questo boss non esiste, i nomi sono fasulli, luoghi non verificabili, niente di fatti verificabile, dunque era una pura mera opera di propaganda. Per cui Andreas Ulrich dello Spiegel ha scritto l'introduzione in cui ha precisato esattamente quello che hai detto tu, che non bisogna fidarsi delle informazioni dei magistrati, ma di far parlare letteralmente direttamente i boss. E poi lui ha aggiunto anche l'espressione del circo ambulante dell'antimafia, perché lui dedica questo alla lotta antimafia in Germania. Ovviamente questo Ulrich, questo giornalista dello Spiegel, un fidato amico di Spano da tanti anni, con cui ha collaborato già molto spesso. Lo Spiegel stesso, in un editoriale infelice, si vantava che i suoi reporter, in questo caso Ulrich per esempio, è stato portato in Calabria da Francesco Spano, citazione, una persona che gode la fiducia di alcuni boss. Dunque, il più grande magazine della Germania si vantava di questo, che praticamente l'articolo sulla mafia veniva dettata dai boss stessi. E l'introduzione è una cosa, quello che lui scrive nell'introduzione, e fa parte di questa controinformazione che era necessario in Germania, perché dopo la strage di Duisburg, dopo tanti magistrati che sono venuti, anche italiani che sono venuti in Germania, Gratteri, Scarpinato e anche altri, a spiegare ai tedeschi cosa è veramente la presenza della mafia in Germania, loro avevano un grande problema in Germania, la mafia in Germania, contro questa propaganda, dovevano mettere contro la loro propaganda di controinformazione per screditare tutto il lavoro dell'informazione sulla presenza della mafia in Germania. Tra l'altro, ovviamente, questo anche di far parlare solo i boss, questa è una cosa che viene poi purtroppo creduto anche facilmente dai giornalisti, perché loro si dicono: ah, ma è molto difficile incontrare un boss. Non sanno che è facilissimo di incontrare un boss, perché cosa vuole il boss? Il boss vuole incontrare un giornalista per raccontare il suo messaggio che vuole portare, la sua propaganda che vuole far diffondere. Non è che il boss ti racconta la verità. Già il titolo di questo libro è molto, fa ridere, perché si chiama L'onore del silenzio, un boss racconta. Allora cosa sarebbe? Un boss che racconta è un cocoraquà, cioè non esiste un boss che racconta. L'onore del silenzio per un boss che racconta. Cosa racconta questo boss? Il boss racconta quello che vuole farti capire, certo, il messaggio che vuole lanciare. E questo è stato trasportato da Spano, che di cui non mi stupisce, ma anche del reporter dello Spiegel, che è anche il prestigio, voglio dire, che questo conta anche molto del prestigio del suo giornale, e questo è un grande problema per la comunicazione e per l'informazione in Germania sulla mafia. Ma Petra, tu hai avuto occasione di denunciare questi fatti, o comunque di confrontarti anche pubblicamente con questi giornalisti o con lo Sbano stesso? Non ho neanche minimamente intenzione di mettermi in presenza di Spano su un podio pubblico, assolutamente. Io ne ho scritto tantissimi articoli, ne ho scritto ampiamente, l'ho scritto anche nel mio ultimo libro che è uscito adesso in maggio in Italia, sulla strada per Corleone, in cui io ho descritto il lavoro propagandistico di Francesco Spano. Ci sono stati anche altri giornalisti, una giornalista anche del Sud, cioè, che l'ha scritto, dunque non è che questo è stato non denunciato, solo che viene, che fa parte anche della convinzione dei tedeschi che noi non abbiamo questo problema della mafia in Germania, viene anche sostenuto da questo. Dunque loro, quando loro dicono ma i boss eccetera, questo riguarda, è solo un proprio problema che riguarda l'Italia, e la convinzione che è molto diffusa ancora oggi in Germania, dunque per loro il loro scopo di controinformazione viene reso molto molto facile, visto che c'è questa immagine folcloristica che persiste in Germania da sempre, ancora anche dopo la strage di Duisburg persiste. Certo, grazie davvero Petra, ricordiamo ancora l'indirizzo che abbiamo pubblicato anche nelle nostre pagine in Facebook, petrareschi.com. Ciao Petra, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie.